Radio, Radio Roma. Un'altra Radio Roma live. Cogot. Tempo. Cogot. Tempo. Cogot. Tempo. Scienza doppia gatta! Io sono DJ Kempo, finalmente eccomi qua. Un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma è arrivata. Mister Kempo, Mister Cogot si presenteranno. Scienza doppia K. Scienza doppia K. Benvenuti, eccoci qua. Oggi è 20 settembre 2010. Mister Cogot vi parla dalle cuffiette di un'altra Radio Roma. Oggi partiremo con una trasmissione divisa in due parti. Prima parte con Scienza doppia K, Kempo, Cogot. La seconda con i The Brothers, Gasperino e Brontolo, con Buonanotte fra chiacchiere e note musicali. Qui vicino a me Mr. Kempo. Sei pronto Mr. Kempo? Adesso ci farà sentire subito un bel pezzo tutto rap. Per voi Mr. Kempo. Manicomio mixtape che devasto. Con SPK. Sarà un inganno o è proprio lui? Inganno, inganno, inganno. È stato presentato da Eurospin. A casa e risparmio. Liquido cuore, confetto dentro. Fai il bravo. Che schifo sta. Ma che cazzo mi sa? Guarda, guarda. Sta merda. Raga. Che cazzo è sto programma? Non può essere suono. Che cazzo è sto programma? Giro con Simlasca giù di maggio e se ti cappa con i soldi a rap in testa ed un etto di fumo in tasca. Prima tappa gratto soglio, preleviamo il socio d'affe. Poi signori polmoni aprono i battenti ad una strage. Manda Fabri con un deca, poi spreca tempo in parole. Mentre noi passiamo i fatti per far alzare l'umore. Una birra dopo un'altra, un'altra ancora e poi l'ennesima. In un quarto d'ora Fabri scende con la sua ventesima. Ci compra le cartine con il fine di prestare. Invitare qualcuno in macchina per poi mandarlo a male. Vecchio amico dei canazzi, sti cazzi ne sa palata. 12 anni in galera per spaccio, sì ma di cazzate. Preso bene o preso male, poco importa nella vita. Se la strada è in discesa, il ritorno sarà in salita. Rozzano, Lorenteggio, Pieve o Grato. Sulle dita il quinto dito va nel culo di una società fallita. Se io mando una sista, Simlasca manda una cartina. Dave manda un feed, l'are grando la notte e mattina. Fabri, si è preso bene, manda la materia priva. Gio Di Maggio prende tutto e la sostanza prende vita. Il fuma pane e vetri, tanto che chi è dietro non lo vedi. Risiedi in problemi infondati argomentando temi. Scleri e non capisci, e definisci scazzi seri. Se questo è droga rap, noi quattro siamo gli emblemi. Se tremi dal freddo, allora fa un tiro che ti riscalda e manda giù litri di alcol che fanno da acqua calda. Poche parole che danno segno di una ribalta che devasto con l'STK. Show, Dave in canne e Simlasca che devasto con l'STK. Litri di birra e fumo in tasca che devasto con l'STK. Show, Dave in canne e Simlasca che devasto con l'STK. Che devasto con l'STK. Con l'STK, con l'STK. L'ululato dei canazzi rimbomba nel mio quartiere, intrappolando i suoi fattoni morsi dalle prese serie. Prese bene, queste storie danno sfogo alle mie corde. Ma ricorda che il canazzo che abbaia spesso non muore. Il pusher della zona rifornisce il bel imbusto. Zio, dammi 5 euro. Ok, il prezzo è giusto, busto il presupposto posto ad ogni tipo di fattanza. Mi hai dato ciò che potevi, ma forse non è abbastanza. Lascio o raddoppio la seconda, mi ispira un cifro e mi ritrovo coi miei soci a fumare peggio di un afro. Mi sento un beep accompagnato da strani miti. Parte l'infinito viaggio verso fattoni city. Incontro Bob e becco ganja, ma è irascibile. In assenza di materia si è fumato l'impossibile. È incredibile, quasi quanto Hulk questo mio rap. Vorrei tornare indietro e vivere a Jurassic Park, ma la realtà me lo impedisce, svanisce questo mio sogno. Purtroppo rivedo nitido e riaffiora il suo bisogno. Prendo dell'altro, assumo questo, poi divoro quest'altro e mi ritrovo perso a fumare erba in un campo da calcio. Show, Dave in canne e Simlasca che devasto con l'STK. Litri di birra e fumo in tasca che devasto con l'STK. Show, Dave sta fengan e si mlasca. Che devasto con l'STK, che devasto con l'STK, con l'STK, con l'STK. Minchia, bella raga, strike spacca. Cacca, mi devi stare indietro in questa situazione. No, vai via, calma. Minchia, no, no, vai inganno che qua ma c'è un brutto. Minchia, sì, anch'io. Allora, quando dico ST, voi rispondete K. ST K. ST K. ST K. E quando dico para, voi rispondete droga. Para. Droga. Para. Droga. E quando dico SP, voi rispondete pazza. SP. Pazza. Raga, fate il brutto. Quanta gente! Fate tutto out, cazzo! Ciao, Franco! Ciao! Oh, è tutto vero. Che è alcol e psicofarmaci ti mandano in fissa. Joe, da Vengan e Simlasca. Che devasto con l'STK. Litri di birra e fumo in tasca. Che devasto con l'STK. Joe, da Vengan e Simlasca. Che devasto con l'STK. Che devasto con l'STK. Con l'STK, con l'STK. E la Madonna. Bella in canna, col bar. Dai, regà, eccoci, siamo tornati. Serata doppia K, Cogot Camp. Dai ragazzi, ecco a voi il prossimo pezzo che vi manderà direttamente dalla nostra console Mister Cogot. Serata doppia K, serata doppia K. 2008. Ed io ho mille motivi. Ho mille motivi. Mister Cogot è alla console. Per voi da Roma, Family Connection. Un ringraziamento a Tats One che purtroppo doveva suonare in una serata in un altro bar. Ci dispiaciamo che non è stata fatta, però sei qui su Scienza Doppia K. Adesso Family Connection, il pezzo per le strade. Roma Doppia K. Questa va a tutti i pischelli della zona mia, regà. Dove sono nato, dove sono cresciuto, dove ho vissuto. Sì. Torpigna Sara, sì. Simone MC nel posto. Giù per le strade della mia città, non sai la gente cosa fa. Per campà, spigne roba. Chi dalle 6 della mattina invece sgobba. Chi c'ha gli soldi a quelli come non li snobba. Gente di strada che derabbi ormai una troppa. C'è chi scuda faccia alla vita e poi si intrippa. Schiaccia, taglia e poi chita la serata. Pronti a scappare se poi scatta la parata. I tutori della legge che controllano borgate. Sceriffi di quartiere con pistole lucidate. Questa qua è la realtà delle nostre strade. Adesso con durime io ve l'ho spiegate. Questo è il prezzo della vita delle zone malfamate. Adesso dimmi un po' dove cazzo andate. Quello che io scrivo mica so cazzate. Perché non state zitti, perché non ascoltate. Torpigna è la zona, questo è il posto losco. Giuda me lo sai che tutti quanti mi conoscono. Scrivo per le strade, non scrivo le cazzate. Scrivo per la gente delle mie borgate. Torpigna è la zona, questo è il posto losco. Giuda me lo sai che tutti quanti mi conoscono. Scrivo per le strade, non scrivo le cazzate. Scrivo per la gente delle mie borgate. Linea, Pantano, Laziali. Generazione anni 80, cresciuta nei centri sociali. Generazione dei reppisti, qualunquisti e criminali. Cresciuta in posti dove per campa metti le ali. Dalla Roma bene, catalogati borgatari. Dai perbenisti che in realtà so solo dei cazzari. Spari, sgommate in motorino. Cenni storici, cannone, l'acqua ed otto Alessandrino. Vischia in fase d'apertura. Che si ce guardi dentro, stanno aperte solo sotto copertura. Paura. Per strada quando giri di notte, pischelli storti fatti che si aggirano a flotte. Botte su botte, in tutti i sensi, danno in altra sì, oh, finché non perdi i sensi. Che pensi, che me so estraniato, io in mezzo a sto quartiere ci ho vissuto, so cresciuto e ci sono nato. Torpigna è la zona, questo è il posto losco. Giuda me lo sai che tutti quanti mi conoscono. Scrivo per le strade, non scrivo le cazzate. Scrivo per la gente delle mie borgate. Torpigna è la zona, questo è il posto losco. Giuda me lo sai che tutti quanti mi conoscono. Scrivo per le strade, non scrivo le cazzate. Scrivo per la gente delle mie borgate. Torpigna e l'amici, il parco e il muretto. Ma fino a qualche anno fa chi l'avrebbe detto? Zona indiscussa, uno scenario perfetto. Quando passi giù da noi portaci rispetto. Questa è la mia zona, puoi chiamarla ghetto. Puoi pure criticarmi per quello che ti ho detto. Tanto già lo so, certe cose me l'aspetto. Ma se c'hai le palle via mappiate petto. Resta il fatto che io non so se ti conviene. Ma questo che racconto, questo qua è il mio quartiere. Quindi quando vieni in piazza qua da noi, zio, fatela via bene.

mille motivi. Un po' mille motivi. Da Roma, per tutta Italia. Un'altra Radio Roma. Ci trovate tranquillamente sul nostro blog, andatela a cliccare in tanti www.un'altraradioroma.blogspot.niente. Forse. Ok, Scienza Doppia K continua così. Con un altro gruppo. Loro sono i Senza Targa, sono Piffo, Aga Mr. Brown e Giamaicano Bianco, HJB. Sono una coppia di amici che, dopo anni di amicizia in preda all'euforia dell'alcol, si mettono in testa di formare un gruppo rap. Il primo demo esce sotto Creative Commons, è importante questo, e si chiama Crash Test. Registrato nello studio di Lyle, che si chiama Suoni. Salutiamo Lyle, Piffo e JB. Ricordo che il demo è scaricabile sul loro MySpace. E ora Senza Targa con il pezzo Scuola di Polizia, solo qui a Scienza Doppia K. Ho mille motivi per andare via, per bene e per male. Difendi il cittadino, ci credo poco. Piuttosto giochi al gatto e al topo. Se vuoi giocare con me c'è il rischio che ti fotto. Becca testo manganello, il resto te lo do dopo. Divisa con le strisce per capire come si mette. Pistola d'ordinanza ed un paio di manette. Tutto fiero, sull'attenti, sguardo serio, spalle dritte. Fili mossi dall'alto per queste marionette. Io da idiota mi ci vestivo da bambino a carnevale. Quindi non lo capisci, non ti posso ascoltare. Buffone travestito che c'è, mi vuoi arrestare? Perché un testo mio lo chiami offesa al pubblico ufficiale. Ok, offesa sia, ma non tocca la roba mia. Spulci nella tasca mia, della cartella mia, nella macchina mia. Non trovi nulla per magia, torna alla tua stupida scuola di polizia. Per cortesia, lascia stare la roba mia. Lascia in pace chi che sia, ma che c'è una malattia, è una fobia. Non vuoi lasciarmi andare via, fa culo a te, alla tua scuola di polizia. Per cortesia, lascia stare la roba mia. Lascia in pace chi che sia, ma che c'è una malattia, è una fobia. Non vuoi lasciarmi andare via, fa culo a te, alla tua scuola di polizia. Sento dietro un gran baccano, so sirene, guarda caso. Punti me che dalla faccia non ti vado proprio a naso. Mi accosti lampeggiante e paletta in mano. Te lo gonfio il palloncino, ma faccia gioca lontano. Provi piacere a sequestrarmi a malapena tu canne. E a parlare di criminali ti tremano le gambe. Cerchi se ho delle armi, provi ad incriminarmi. Ma c'ho una bomba in gola, zio, non potrei fermarmi. Sotto mano la beretta per incutermi timore. Ti senti nel fuoco e vorresti fare il tiratore. Se vuoi te lo regalo, un libretto di istruzione. Se ogni colpo che ti parte poi è sempre per errore. Ok, era romano, ma quando è troppo, abusate sto cazzo, te lo dico adesso scoppio. Odio parlare per poi cadere nell'ovvio, ma se non l'hai capito, della divisa me ne fotto. Per cortesia, lascia stare la roba mia. Lascia in pace chi che sia, ma che c'è una malattia, è una fobia. Non vuoi lasciarmi andare via, fa culo a te, alla tua scuola di polizia. Per cortesia, lascia stare la roba mia. Lascia in pace chi che sia, ma che c'è una malattia, è una fobia. Non vuoi lasciarmi andare via, fa culo a te, alla tua scuola di polizia. Abusi di potere, mettiamoli a tacere. Premiamo ed elogiamo chi ci prende per sedere. Chi ci leva quel poco che riusciamo ad avere. Chi ci ammazza di botte per puro piacere. E non è il caso di citare gli episodi sul giornale. Dello spirito troppo protetto per farsi incarcerare. Io ci canto e ci scherzo, solo questo posso fare. Ma parliamoci chiaro, non c'è niente da scherzare. E non è il caso di citare gli episodi sul giornale. Dello spirito troppo protetto per farsi incarcerare. Io ci canto e ci scherzo, solo questo posso fare. Ma parliamoci chiaro, non c'è niente da scherzare. Per cortesia, lascia stare la roba mia. Lascia in pace chi che sia, ma che c'è una malattia, è una fobia. Non vuoi lasciarmi andare via, fa culo a te, alla tua scuola di polizia. Per cortesia, lascia stare la roba mia. Lascia in pace chi che sia, ma che c'è una malattia, è una fobia. Non vuoi lasciarmi andare via, fa culo a te, alla tua scuola di polizia. Da Blue Tides, il regno di Trip. Ecco a voi un nuovo pezzo, solo ed esclusivamente da un'altra Radio Roma, una produzione PJ0 H PJ Beats. Il regno dei trippi. Ok, Gabriel, UMT70E, Road Ties, ci stiamo, no? Ah, oh, il mago di Lost, 2010. Ok, sì, sì, ah, PJ0 B. incatenato nel mio mondo a causa di lucchetti. Vago nelle terre del mio regno insieme a maghi e folletti. Nella mia mente porta chiusa a chiave che t'aspetti. Quando vedo mostri intrippati che poi flashano serpenti. Nell'arena butto nella mischia il mio demonio. Qui si muore di overdose come Tonio Cartonio. Quattro quarti old school come il vecchio conio. Ti presento il mio pensiero scritto sopra un foglio. Ti parlo di una società tutt'altro che matura. Un mondo che la gente non si vanta e se la tira. Mi sono perso in questo regno, troverò la serratura. Continuo a fare rap fino alla mia sepoltura. Arrivato in cima al mio castello parabolando. Mi tappo le mie orecchie se mi stai parlando. E faccio rime su 16 barre mentre sto cantando. Il mio cervello è un fungo allucinogeno che fa comando. Un mondo fatto di colori che c'è sempre il sole. Faccio rime come Procer Zero vuole spiegarmi il senso di ste parole vuote. Vole sto coi piedi per terra sotto effetto di peyote. 8 barre per la vita, un foglio e una matita. A casa scrive trip hop come un eremita. Il mio cervello attira rime, è una calamita. Una botta a questa vita per farla finita. È una sfida con la sfiga, chi la spunta vince. Ho sempre perso la fortuna, a me non mi convince. C'è chi sta bene, chi sta male, chi poi finge. C'è chi se fa le spade all'angolo e poi piange. Spiegami il senso della vita senza droga. C'è chi s'ammazza con la bamba, con la coca. Nel mio regno dei trip è la stessa cosa. Alla festa della mamma porgo sulla tomba una mimosa. Benvenuti nel mio mondo, benvenuti nel mio campo. Life is a bad trip e non c'è scampo. Esco dalla tana come il bianco neglio. Aggrappandomi su radici alla ricerca di un appiglio. Mi si presenta un mondo completamente surreale. All'entrata regno dei trip, benvenuti nel reame. Nei parchi ragazzi che giocano con le siringhe. Nelle chiese i preti che abusano sulle bimbe. Entro nel regno in uno stato allucinato. Dove io sembro il passo il più normale decapitato. Incastrato in sto posto ormai dimenticato. Da Dio la Madonna o chiunque l'ha creato. Feste e balli organizzate per tenerci buoni. Alcol e droghe che si mescolano con i suoni. Mentre tutto va puttane e la gente se ne infischia. Dove l'informazione è la prima che te la mischia. L'odio regna incontrastato, il sentimento principale. Tutti sono master quando si vuole far del male. Quando avrai bisogno ti ritroverai solo come un cipresso nel deserto senza acqua. Dove il più vero è falso come imitazioni dei cinesi. Domande e sentimenti nel vuoto stanno appesi. Faccio un punto della situazione a occhio e croce. E di certo qua occhio mi mettono in croce. La pazzia è la via per stare appresso a sto regno. Se impazzisce se cerchi di cambiare sto disegno. Sta realtà che diventa sempre più distorta. Uccidono la mia anima in questa vita morta. Uscito matto come lo schiacco alla regina. Scrivo messaggi in bottiglia con consumando carta e china. Angeli danzanti mi dicono stai buono, mentre i demoni sono al mio fianco e siedono sul trono. Intanto lo manno senza targa con il pezzo cammina. Cammina, cammina, cammina. Ehi, gioco a mosca cieca col destino. Cammino, cammino, e si cammino. Senza targa, gioco a mosca cieca col destino. Mi sento un clandestino. Chiudo gli occhi e senza meta per le strade cammino. E mi ostino perfino quando mi sento un cretino. Ma sono fatto così, lo faccio fin da bambino. Eppure è poco saggio, ma la vita è un miraggio da raggiungere senza manco un passaggio. Faccio quel che faccio, te ne sto dando un assaggio. E tutto ciò che hai creato non l'ho fatto a casaccio. Una logica contorta, non ti piace, poco importa. Nella mia vita io sto lasciando un'impronta. Perché sia lunga o corta, si vive una sola volta ed ogni occasione ed ogni sorta deve essere colta. E alle domande ormai non cerco risposta, un po' mi costa, ma tanto più la cerco e più rimane nascosta. E se la trovo opposta a quella che era presupposta, in questo gioco è troppo alta la posta. E ora chiedi noi chi siamo, che facciamo, dove siamo e dove andiamo. Vaghiamo il perché non lo sappiamo, non chiediamo niente, niente ci deve essere chiesto. Non è una proposta, è un pretesto. E ancora chiedi perché me, perché te, perché re, troppe domande, troppi ma e troppi se, troppi interrogativi. Ed io esco pazzo, ma di questa vita non c'ho ancora capito un cazzo. Sfido a trovarne solo uno che ci crede nel futuro, che mi spieghi perché questo cammino è così duro. Uno solo giuro, però che sia sicuro, che creda in ciò che dice con un pensiero duraturo. Mi spiace, cerco la pace, non è una fase, ma è l'unica cosa in cui sono capace. In questo io sono tenace, non mi arrendo, mi dispiace. Spero che la mia costanza sia efficace. Se non serve cammino solo con il mio destino. Voglio giungere all'arrivo, voglio giungervi per primo. Così mi esprimo, canto, non mi deprimo. Ogni ostacolo davanti io lo sopprimo fino a a curare le ferite profonde. La mia voce si diffonde, io chiedo, nessuno risponde. D'altronde siamo soli in queste enormi lande, come favore personale chiedo, basta domanda. E chiedi noi chi siamo, che facciamo, dove siamo e dove andiamo. Vaghiamo, il perché non lo sappiamo, non chiediamo niente, niente ci deve essere chiesto. Non è una proposta, è un pretesto. E ancora chiedi perché me, perché te, perché rap. Troppe domande, troppi ma e troppi se, troppi interrogativi. Ed io esco pazzo, ma di questa vita non c'ho ancora capito un cazzo. Non ho capito niente. Cammino, cammino. Sono in mezzo a troppa gente. Cammino, cammino. Rispondo alle domande della mente. Cammino, cammino. Parlo ma nessuno mi cammino, sente. Cammino, cammino. Non ho capito niente. Cammino, cammino. Sono in mezzo a troppa gente. Cammino, cammino. Rispondo alle domande della mente. Cammino, cammino. Parlo ma nessuno cammino, mi sente. Cammino, cammino. Cammino meglio solo che male accompagnato. È un sogno, mi sono svegliato, sono svogliato, quasi affaticato, perché tutta la vita ho sempre camminato. Ignoro quel che mi aspetta, accendo una sigaretta, prendo un blocco, una penna, la tengo stretta, scrivo lento, non vado di fretta, queste sono emozioni, non una canzonetta. Cammino, cammino, cammino, cammino, cammino, cammino, cammino, cammino, cammino, cammino, cammino, cammino, cammino, cammino. E ancora chiedi noi chi siamo, che facciamo, dove siamo e dove andiamo. Vaghiamo, il perché non lo sappiamo, non chiediamo niente, niente ci deve essere chiesto. Non è una proposta, è un pretesto. E ancora chiedi perché me, perché te, perché rap. Troppe domande, troppi ma e troppi se, troppi interrogativi. Ed io esco passo, ma di questa vita non c'ho ancora capito un cazzo. E ancora chiedi noi chi siamo, che facciamo, dove siamo e dove andiamo. Vaghiamo, il perché non lo sappiamo, non chiediamo niente, niente ci deve essere chiesto. Non è una proposta, è un pretesto. E ancora chiedi perché me, perché te, perché rap. Troppe domande, troppi ma e troppi se, troppi interrogativi. Ed io esco pazzo, ma di questa vita non c'ho ancora capito un cazzo. Ora chiedi noi chi siamo, che facciamo, dove siamo e dove andiamo. Vaghiamo, il perché non lo sappiamo, non chiediamo niente, niente ci deve essere chiesto. Non è una proposta, è un pretesto. E ancora chiedi perché me, perché te, perché re, perché domande, perché me. Cammino, cammino. Dai ragazzi, ci siete? Noi siamo ancora qua, doppia K, Kogot Kempo. Mi sbaglio anche col mio nome. Adesso continuiamo con il rap romano. Lui è La Lai. E il testo e il pezzo è Al Massimo, qui a Nartra Radio Roma. Per voi, Kempo, dai. C'è sto beat. Ci voglio soltanto provare. Ma vedo che ancora non avete risposto al nostro test. Stiamo ancora aspettando le vostre risposte, ansiosi. Proseguiremo più tardi con altre domande. E continueremo ancora con il nostro quiz. Tanta rabbia sul micro, fra. Devo dare il massimo. A guess it's devo dare il massimo. Ogni giorno è una lotta. Devi andare sempre a manetta per la live che ci sei. Vado a nastro come Vasco, vado al massimo. Le belle sono gonfie e mi sollevo dall'astico. Voglio stare in alto come un attico, per poi esplodere sul palco come plastico. Il futuro è ora come non fiction. Il mio rap è vero e non è una fiction. La fine di ogni pezzo per me è un inizio. Il rap è malattia, il mio peggior vizio. Devo dare il massimo, l'ansia da prestazione, preoccupazione come un bright in una stazione. Scrivo abusivo tipo occupazione, che mi carica come spirri in una manifestazione. Ognuno là può pensare come vuole, può anche pensare male delle mie parole. Io scrivo solo per chi le vuole, tu sbagli se pensi che siano solo parole, parole, parole. Non ho niente da perdere, devo dare il massimo. Non ho tempo da perdere, devo andare al massimo. Devo dare il massimo. Massimo, il massimo, devo andare al massimo. Non ho niente da perdere e non voglio perdere. Non voglio essere un vuoto a perdere. Ogni disco deve essere un vuoto a rendere. E tu non te la prendere se non mi voglio arrendere. Non voglio perdere la faccia. Il fallimento è un demone che col tempo non si scaccia. Devo dare il massimo su ogni traccia. Da ogni traccia devo trarre il massimo come un magnaccia. Non voglio andare a caccia di rimorsi. Devo dare il massimo, non accetto ricorsi. Voglio un futuro da prendere a morsi. Con calma, senza l'ombra di un forcing. Devo tirare fuori tutto ciò che ho, e per farlo non devo aprire mica un blog. Devo dare il top, devo fare il pop, prima che il tempo mi divori come blow. Non ho niente da perdere, devo dare il massimo. Non ho tempo da perdere, devo andare al massimo. Devo dare il massimo. Devo andare al massimo. Quante situazioni muovo, tengo i fili come il padrino. Italiano sulla scena come Al Pacino. Sono regista di ste sito e mago Scorsese. Sciaccazione 30 giorni al mese. Scrivo il copione, tu sei un copione. Io faccio la mia parte, quindi fatti da parte. Siete fatti, io faccio fatti. Fatti chiari, amicizia lunga. Lo sai per chi la sa tutta. La verità la sputa in battuta. Non posso perdere un giorno, un minuto o un secondo. Corro per la mia vita che la scrivo sopra un foglio. Come un maratoneta, cioè come mio padre con orgoglio. Tenendo in mente la meta, se vuoi aspettare aspetta, frate sono di fretta. Fuso tra mille impegni ma ti fondo l'etichetta. Dopo taglio la fetta, rime e vado diretto. Devo dare il massimo per il massimo rispetto. Non ho niente da perdere, devo dare il massimo. Non ho tempo da perdere, devo andare al massimo. Devo dare il massimo, devo andare al massimo. E adesso a Scienza Doppia K, un nostro carissimo conoscente, già messo in vari podcast, nei primi podcast di Nartra di Roma. Lo abbiamo conosciuto e scoperto su Giamento ed era semplicemente Gallo. Ma da pochi giorni potete trovare la nuova fan page su Facebook al nome Pablo Gallo. Un nome al 100% riconoscibile. Lui è di Taranto ed ora che il mondo intero lo conosca. Già l'attivo 4 album che ci andiamo ad ascoltare. Serpente nell'arena, butto nella mischia il mio demonio. Qui si muore di overdose come Tonio Cartonio. Quattro quarti old school. La dico grossa. Pensiero scritto sopra un foglio. Big Bang Sound, Andrea Gallo a.k.a. Legion from G&G Prod. It's very big, big says, this says. Scusami tanto, la dico grossa. Tu scusami tanto, ma la dico grossa. Scusami, la devo dire grossa. Io mi maledico, ma la dico grossa. Se tu sei mio amico, la dico grossa. Se sei mio nemico, te la dico pure grossa. Se non ci conosciamo, la dico comunque grossa. Scusami tanto, ma la dico grossa. La dico grossa e la conservo in un boccaccio, chiuso ermetico col catenaccio. Questo beat suona un po' troppo club. L'ho fatto dopo un'overdose di kebab. Lo consiglia la notte. Se tu ti fai mia figlia, io ti riempio di botte. Questo è quello che dirò tra qualche anno, magari con una famiglia a carico. Che danno, cazzate, sto fuori per il sorgio. A casa mia lo sanno, se chiama mia madre sto trombando con l'affanno. Non dico che faccio le scale, musicalmente sono caduto dalle scale. Mi sono rotto il femore, guarda negli occhi il demone, proprio come Snooze. Ho il componente aggiuntivo come MSN Plus. Vi porto tutti con me, proprio come un bus. Vado contro vento, contro il treno, vento in faccia. Bevo mille birre e c'ho il fegato che scalcia. Come Van Damme, se ti piace questa roba allora alza il volume e si fotte la ram. Scusami tanto, la dico grossa. Tu scusami tanto, ma la dico grossa. Scusami, la devo dire grossa. Io mi maledico, ma la dico grossa. Se tu sei mio amico, te la dico grossa. Se sei mio nemico, te la dico pure grossa. Se non ci conosciamo, la dico comunque grossa. Scusami tanto, ma la dico grossa. Scusami tanto, la dico grossa. Tu scusami tanto, ma la dico grossa. Scusami, la devo dire grossa. Io mi maledico, ma la dico grossa. Se tu sei mio amico, la dico grossa. Se sei mio nemico, te la dico pure grossa. Se non ci conosciamo, la dico comunque grossa. Scusami tanto, ma la dico grossa. Alzo il volume a mitraglietta. Scusami tanto, una base che mi aspetta. La fretta è puttana, la calma sana, la mia mente insana. E quando ti tolgo la maglietta, sento il profumo del delay, profumo di lei. Non c'hai capito un Cassius Clay. Ehi, miro a distorcere la realtà. Tu sfida la forza. forza di gravità. Tu tira sulla mano, tu tira sulla mano, originale come Spesso quello che si dice non si fa, spesso quello che si fa non mi fa felice. Cazzo, nelle foto sembro sempre fatto, non sono ancora pronto per l'autoscatto. L'urlo di Munch è il mio autoritratto, mi autosequestro e mi autoriscatto. La dico grossa tanto, il massimo che mi succede è che prendo la scossa e piango. Mi rompono le ossa, finisco in una fossa, però prima la dico grossa. Scusami tanto, la dico grossa. Tu scusami tanto, ma la dico grossa. Scusami, la devo dire grossa. Io mi maledico, ma la dico grossa. Se tu sei mio amico, te la dico grossa. Se sei mio nemico, te la dico pure grossa. Se non ci conosciamo, la dico comunque grossa. Scusami tanto, ma la dico grossa. Scusami tanto, la dico grossa. Tu scusami tanto, ma la dico grossa. Scusami, la devo dire grossa. Io mi maledico, ma la dico grossa. Se tu sei mio amico, te la dico grossa. Se sei mio nemico, te la dico pure grossa. Se non ci conosciamo, la dico comunque grossa. Scusami tanto, ma la dico grossa. Grossa, grossa. L'ombelico del mondo. Eccoci ragazzi, siamo ancora qui. Questa sera delizieremo con il nostro doppia K, doppia H e pop con Kogot. Abbiamo già io parato sei pezzi, ma adesso facciamo salire questo ritmo. Loro sono una nostra vecchia conoscenza, Ghost and Cora, Oltre i limiti, Tarambellon. Dai, dai, dai, eccoli Ghost and Cora. Lost Corax Monkey Studio. Vabbè, senti, come una volta lo faccio io, e va così. Brasca sopra il beat, controlli. Noi saliamo su e tu non ci fermi più. Se c'è brasca sopra il beat, siamo incontrollabili, eh sì. Prova a prenderci, anzi, noi restiamo qui, oltre i limiti. L-O-S-K-C-O-R-A-X. Io non ho mai detto che vengo dal ghetto, la zona la rispetto, ma non è un granché, lo ammetto. Mi diletto con effetto, esentando ogni difetto. Dito sul grilletto, un paletto nel petto. Motorino a faro spento, passo il casaletto. Diretta a Monteverde, Portuense, dritto a letto. Non mi aspetto che tu appoggi il mio progetto. Andrò porta a porta come un venditore del folletto. 90 la paura come i gradi quando è retto. Chiuso come un lucchetto, prendo il male con il petto. Prometto come J-Lax che domani smetto, ma ciò che mi prospetto non è mai quello che ho detto. Peso lordo meno tare ed è il mio peso netto. Tuffo dal Niagara affetto, un entrazzo il colletto. Il guardaline per rispetto stride il suo fischietto. Il rigore mio ci vado io al dischetto. Il mio sogno nel cassetto è di essere l'eletto, ma barcollo solo tra il maledetto e il benedetto. Sono un architetto e l'oggetto del mio assetto è il rigetto di un dialetto che è quasi perfetto. Sono l'addetto al brevetto di ogni cadetto. Bigliette del metto, se no dritto al lazzaretto. Accetto senza affetti il banchetto da un senza tetto. Sarei il vostro profeta come agli arabi Maometto. Noi saliamo su e tu non ci fermi più. Se c'è brasca sopra il beat, siamo incontrollabili, eh sì. Prova a prenderci, anzi, noi restiamo qui, oltre i limiti. L-O-S-K-C-O-R-A-E. Io potrei sparire un po', partire da questa città, tanto già lo so, nessuno mi ricorderà di inchiodarmi qua. Io non ci ho mai pensato fermarmi, ma se neanche ho cominciato non vado a ciò che passa nel mio stereo. Ho una cassa che quando suona fa troppo sul serio, e giuro che sta strofa ora prende il via. Sicuro adesso in poi la chiuderò in IA. Io se facessi il GIA direi più di una bugia, ma sono solo un mago e faccio una magia. La mia nostalgia la trasformo in energia, e per capirlo non serve un libro di psicologia. È la mia profezia che sa bere così sia. Follia, pazzia, una sincera utopia. Una sinfonia al brutto sembra in armonia. Io non canto, parlo, e se canti sei una sfia. Con ironia ti faccio un'altra profezia. Qui non c'è democrazia finché c'è la polizia. Qui non c'è teoria, sarà una botta di euforia. Ma stavolta niente svolta, sarà solo razzia e mania. Ho rime scritte come terapia. Se questa giuria ha dottrine di miopia, parla di contante e dice solo un'idiozia. Che sta musica è la mia e non ci faccio economia. Noi saliamo su e tu non ci fermi più. Se c'è Brasca sopra il beat, siamo incontrollabili. Eh sì, prova a prenderci azzi. Noi restiamo qui, oltre i limiti. L-O-S-K-C-O-R-A-E. Noi saliamo su e tu non ci fermi più. Se c'è Brasca sopra il beat, siamo incontrollabili. Eh sì, prova a prenderci azzi. Noi restiamo qui, oltre i limiti. L-O-S-K-C-O-R-A-E. Prossimo pezzo qui è Nartra, Radio Roma, Scienza Doppia K. Anche lui è due di Roma, più esattamente di Fiumicino. Suona spesso insieme alla Family Connection. Il primo video che ho visto di The Hater è stato all'inizio del 2010 ed era questa traccia, No Such. Comunque il promo con altre tracce le trovate sul loro MySpace, downloadabili. Qui a Nartra, Radio Roma, The Hater, con il pezzo No Such. Sì, ok. È l'odiatore sopra il beat. 2010. Nuovo inizio. Ok. E tu lo sai. Tu lo sai come suona. Ok. Sì. Voglio nuove aspettative per me e i miei compari. Voglio qualcosa in cui credere e coltivare i miei ideali. Voglio la possibilità di dire a nessuna famiglia: avete situato i nostri sogni e ne avete fatta una poltiglia. Voglio che lo Stato la mia gente non conosce, povero muore, lo stesso non ha niente. Voglio che ci dai davvero una possibilità di fuga. 12.000 euro all'operaio, chiuso in una fabbrica che suda. Lui non è seduto certo dietro una scrivania. Io non sono in Parlamento, mi sfogo su una melodia. Sento parlare di mafiosi e grandi delinquenti. Si parla anche di mafiosi che fanno i presidenti. Mi rivolgo a un popolo che segue un criminale. Lui ha tanti bei seguaci e fa quello che gli pare. Ormai mi tutelo da solo e continuo a combattere. Tenete i finti moralismi, io non so che farmene. Non lo saccio che maneggia questi cose. Chiacchiero sento veicolo e so chiacchiero pauroso. Tu porto una mano a vuoto perché a questi casonga roba mia guardia. È roba mia e non ha tuoc. Non lo saccio che maneggia questi cose. Chiacchiero sento veicolo e so chiacchiero pauroso. Tu porto una mano a vuoto perché a questi casonga roba mia guardia. È roba mia e non ha tuoc. È duro ormai questa Italia, sembra che rotola. La mia gente non si sottopone e si rende autonoma. Ci diamo solo degli obiettivi per andare avanti. Andare avanti tra i miliardi, andare avanti e ribellarci contro uno Stato che ci vuole sottoporre. Per chiunque un sogno stretto e lo rincorre. Per chi si sente fregato da uno Stato fantasma. Per chi si è rotto il cazzo, alza la testa e dice basta. Queste son parole vere, io non ho paura di mostrare disappunto e rischiare la censura. Di dire ciò che penso, la gente si scandalizza. Tra ricco nel povero e ricco che pecca l'avarizia. Guarda in faccia ste persone e dimmi che capisci. Le occhiaie marcate perennemente, gli occhi tristi. La felicità ormai è scomparsa da un bel po'. Identificami da uomo e non da ciò che ho. Non lo saccio che maneggia questi cose. Chiacchiero sento pericolo e so chiacchiero pauroso. Tu porto una mano a vuoto perché così la songa roba mia guardia. È roba mia e non ha duoc. Non lo saccio che maneggia questi cose. Chiacchiero sento pericolo e so chiacchiero pauroso. Tu porto una mano a vuoto perché così la songa roba mia guardia. È roba mia e non ha duoc. Vedo chi aspetta da una vita che qualcosa accada. Chi sbatte la testa per il muto sulla casa. Chi pensa al suicidio come fonte di salvezza. Chi crolla e molla tutto perché la realtà lo stressa. Chi va avanti senza niente, senza mille pretese. Solo quella di rivedere le speranze accese. Chi ha sempre meno soldi ma sempre mille spese. Chi stringe sempre la cinghia per arrivare a fine mese. Chi ormai si abbatte perché la vita l'ha sconfitto. Chi pensa che sto mese non ha i soldi per la fine. Sa che il mese prossimo la situazione sarà uguale. Sa che non può andare peggio, può soltanto migliorare. Non ho soldi, lo ammetto, e non mi vergogno. Non sono i soldi a incoraggiare aiutarmi, ma la gente che c'è intorno, ma chi determinata la mia gente ne è certa. Ci prenderemo la rivincita, usciremo fuori dalla merda. Lo saccio che maneggia questi cose, chiacchiero sento pericolo e so chiacchiero pauroso. Do porto di mano a vuoto perché questi casonga roba mia guardia, è roba mia e non ad hoc. Non lo saccio che maneggia questi cose, chiacchiero sento pericolo e so chiacchiero pauroso. Do porto di mano a vuoto perché questi casonga roba mia guardia, è roba mia e non ad hoc. Ok, non lo saccio che maneggia fegheri, ci cade nei sord, in un letengo, un tank sprang. Mi già creato futuro con mio, come vena così mi già pigliato. L'odiatore 2010, nuovo inizio, ok? E sì, ancora una volta. Non lo saccio, non lo saccio questi cose, chiacchiero sento pericolo e so chiacchiero pauroso. To porto come una volta perché così casonga roba mia guardia, è roba mia e non ad hoc. È roba mia e non ad hoc. La roba mia guardia, la roba mia guardia, è roba mia e non la tua. Per mesi lo stolto può digiunare, mangiando dalla punta di un filo d'erba. Tuttavia ciò non vale un centesimo nei confronti del maestro il cui cibo è la via. Scienza doppia K, Kempo e Cocot. Tutto continua. Kilo, Fit, Shorty. Doppia K con voi. A Cocot. A Cocot. Che senza di me, ma sono sempre qua, dimostrando al mondo intero la mia identità. Tutto continua e il tempo non si ferma mai per me. E corro anche se non rivolgo la mia vita a un mondo che non c'è. Tutto continua e il mondo gira anche senza di me. Ma sono sempre qua, dimostrando al mondo intero la mia identità. Tutto continua e il tempo non si ferma mai per me. E corro anche se non rivolgo la mia vita a un mondo che non c'è. E io man, non chiedo molto, chiedo l'emozione, quel rispetto che già mi hanno tolto. L'umore è storto, ma vivo morto, sono ancora alla ricerca di quel nostro sogno. Ricorda che non è colpa mia se entri nei sentimenti facendone razzia. Kilo keep it real, cuori in avaria, foglio penna e testa alta superando ogni aporia. Ne resta l'utopia da mattina fino a sera, quando l'atmosfera superava ogni barriera. Da fondi di bottiglia vedi opaco quel colore, astratti discorsi se non trovi le parole. Sei diversa da quando ascolti le persone, io non indietreggio e vado verso un nuovo sole. Tutto continua, immerso in vibre nuove. Tutto continua ma non sento il tuo calore. Tutto continua e il mondo gira anche senza di me. Ma sono sempre qua, dimostrando al mondo intero la mia identità. Tutto continua e il tempo non si ferma mai per me. E corro anche se non rivolgo la mia vita a un mondo che non c'è. Ho imparato che l'amore fa da trampolino per l'emozione di ogni cosa che vivo. Se mi ostino ad arrivare primo, magari riuscirò ad essere artefice del mio destino. Ho imparato ad analizzarmi a fondo, a scavare nel profondo del cuore di un bambino. Per quanto diventi uomo ogni giorno, conservo tutti i giochi dei momenti in cui sorrido. Sto imparando a darmi sempre un motivo, che nulla è scontato, che non tutto è cattivo, che la bontà tocca scovarla nei meandri di coloro che danno valore al proprio grido di passione, al proprio credo, al proprio cuore, ad ogni azione anche se piccola, a fissare un punto d'arrivo. Io vi sfido a vivere la vita senza questo, sarebbe quasi un suicidio. Tutto continua e il mondo gira anche senza di me. Ma sono sempre qua, dimostrando al mondo intero la mia identità. Tutto continua e il tempo non si ferma mai per me. E corro anche se non rivolgo la mia vita a un mondo che non c'è. Tutto tutto continua e il mondo gira anche senza di me. Ma sono sempre qua, dimostrando al mondo intero la mia identità. Tutto continua e il tempo non si ferma mai per me. E corro anche se non rivolgo la mia vita a un mondo che non c'è. Adesso sempre da Roma, Lord Madness, con B-Boy Paranoid. Sopra un'esplosione, bastoni gialli che mi segnano il segno. Cambiando la prospettiva si ottengono idee nuove e nuova forza. Assistere a un prodigio fa germogliare in noi la volontà di compierne. Chiamami pure Rhymes Machine, come clean come Jeru, così dirti che la versione clean non passa neanche nel mio stereo. Ho la testa ossessionata come se mi squillasse un beeper. Più serio di così davvero non dovrei mai sorridere. Per gli MC's in tiro uno stilo da bye bye, pervertiti e killers nella mia chat line. Miami Vice Highlights, pusher di skills, inseguito da fantasmi ingerisco pack pills. Te metti del positivo nelle rime, sei un pezzo di pane, ma essendo celiaco non ti riesco proprio a digerire. Rime bucano polmoni come cocainomani con la bottiglia. Per essere più corti occorre un doppiatore come a Thomas Milliam. Lontano mille miglia, cerca di avvicinarti, ma più fai passi in avanti più già sai siamo distanti. Te vorresti contanti e contratti come soluzione, ma quello non è certo hip hop, è solo musica da pappone. Il tuo è un fashion rap easy network, io rimango roughneck, non cambio pelle come Michael Jackson. Sento parlare tutti i critici come il Fegiz, solo che mi fanno schifo i dischi a cui danno 10. Sarà questione di gusto alternativo, vanno fuori tempo e si permettono anche di fare rap autocelebrativo. Descrivo una situazione che è trash, così com'è MC That's Them. E poi paranoia, ok man? Il demiurgo trasformò il caos in cosmo, il disordine in ordine, servendosi della materia indeterminata per plasmare le cose a imitazione delle immutabili ed eterne idee. Ciò che ne scaturì fu una struttura complessa nella quale egli rinvenne la chiave per la comprensione dell'intero universo. E questo ente geometrico fondamentale prese il nome di Paranoia. Bevo la marocalice infelice anche da ubriaco. Mi placo, me ne vado nel convento sacro come a Subiaco. Così gli MC si evaporano per il calore che gli do. Gli disintegro il flow e dopo li elimino. Metti Miracle, senti un ritmico ansiogeno. Rap battler, rhyme buster come in caster, grandmaster. Zero svendita del master alle aste. Scarico i dischi dei rapper da Napster sulle piastre. Ogni concetto è keep it real, già sai che è garantito. Crollano palazzi mentre il mio sound resta granitico. Ho un flusso atipico anche se poco prolifico. Non sono un money maker, tu fumi cannoni con il trip della Jamaica. Ho uno stile da bacheca che se ne frega, che non dà tregua, che piega, esiste ancora chi lo nega. Mi è sfuggito il disco dall'hard disk e ne hai fatto un backup, ma ti sei fottuto la vittoria come David Beckham. Bel pezzo di idiota, non puoi fottere col mio sound system, perché tiene testa le tue testate giornalistiche. Ho una testata nucleare per far esplodere il tuo business. È il mondo nuovo per il tuo mondo apocalisse, perché la merda ti entra in gola e men che non si dica. Un consiglio cambia genere, se c'è il pallino della figa. Competizione con me, già sai che non ve ne è. Mad, it's like Eddie Murphy versus David Chappelle. Molto. Signori, con questo la mia lezione odierna è giunta alla sua conclusione. Grazie, maestro. Splendida lezione, maestro. Mancano 25 secondi. Lord Madness spacca. Kempo, Cocot anche. E doppia K per voi. Eccolo in arrivo, il cappellaio senza tempo. PJ0 H. PJ Beats. Dottor D, l'altra radio Roma. Scienza doppia K. C'è qualcuno contro di me, io ne pago le spese. Ipocrisia senza fine nel bel paese. Nulla da fare, il tempo è cattivo come me. Fermo sulle 6, ancora in tempo per il tè. In tempo per consuetudini e cattive abitudini. Mai tardi per insulti e per far scoppiare fulmini. Siamo sempre in tempo ma comunque in ritardo. Dai sempre il massimo e sei sempre lo scarto. Non tengo più il conto delle volte che ho pianto. Delle poche volte che ho vinto non me ne vanto. Il tempo è fermo ma son sempre più stanco. Come essere un playboy e andare sempre in bianco. Manco di perspicacia, arrivo sempre dopo. La mia settimana 7, domeniche non riposo. Sono un cappellaio che prende tempo. Tanti auguri di un buon compleanno senza sentimento. Sono la mina vagante facile da abbandonare. Un petardo che non ha tempo per scoppiare. Ho mille orologi da fare invidia. Ma il tempo si ripete sempre, me lo dicono i mass media. Questo mondo non mi dà tempo per pensare. E quando tutto il tempo non mi fa lavorare, resto a piedi a fare festa. Sono sempre pronto per tutti i meno compleanni. Fatti il conto. Oh oh, gira la lancetta. Oh oh, questa vita non ti aspetta. Oh oh, senti la ricetta. Oh oh, inutile che vai di fretta. Oh oh, gira la lancetta. Oh oh, questa vita non ti aspetta. Oh oh, senti la ricetta. Oh oh, inutile che vai di fretta. Vado alla cieca, tengo sempre le mani a tempo. Non butto il mio tempo come Mark Renton. Sento brutte cose attorno a me, ma non ho più tempo per rimediare. Scusa papà, non concludo un cazzo, non risolvo un cazzo. Come tutti gli altri penso, domani m'ammazzo. Visto che il tempo a me concesso mi non basta. Visto che il mio massimo comunque non gli basta. Merda, un altro giorno è passato in sordina. Merda, la merce avanza dalla sera prima. Vedrai, col tempo tutto si sistema. Vedrai, col tempo si cicatrizza la vena. Sogno un posto ai tropici, tipe da sballo. Spremute d'arancia in bicchieri di cristallo. Ma non è la vita che mi aspetta. Io aspetto e mi aspetto una vita in una sala d'aspetto. Questo mondo non mi dà tempo per pensare. E quando tutto il tempo non mi fa lavorare, resto a piedi a fare festa. Sono sempre pronto per tutti i meno compleanni. Fatti il conto. Oh oh, gira la lancetta. Oh oh, questa vita non ti aspetta. Oh oh, senti la ricetta. Oh oh, inutile che vai di fretta. Oh oh, gira la lancetta. Oh oh, questa vita non ti aspetta. Oh oh, senti la ricetta. Oh oh, inutile che vai di fretta. Oh oh, gira la lancetta. Oh oh, questa vita non ti aspetta. Oh oh, senti la ricetta. Oh oh, inutile che vai di fretta. Oh oh, gira la lancetta. Oh oh, questa vita non ti aspetta. Oh oh, senti la ricetta. Inutile che vai di fretta. E adesso ancora con Pablo Gallo, ex Gallo. Con Gallo c'è lo sballo. Adesso un pezzo del vecchio album Adolescenza Perpetua, Prosciutto di Karma. Lui è Pablo Gallo da Taranto. Assolutamente. Non è assolutamente. Assolutamente. Assolutamente. Assolutamente. Assolutamente. È giusto una presa di iniziativa. Assolutamente. Assolutamente. Suono come un campanello d'allarme. Avviso che regno invaso dalle tarme. Posso utilizzare tutto il karma che vuoi, ma se stai nelle tame sono cazzi tuoi. Suono come un campanello d'allarme. Avviso che regno invaso dalle tarme. Posso utilizzare tutto il karma che vuoi, ma se stai nelle tame sono cazzi tuoi. Se a maggio trovo un ingaggio, mi faccio un viaggio, mi godo il paesaggio e non provo a chiedere un passaggio, perché trovare aiuto è un miraggio. Bisogna farcela con le proprie forze, bisogna cadere e farsi le scorze alle ginocchia. Bisogna sapere che non si vive a capocchia per sempre. Ti esplodono le tempie, sono segnali del corpo, che è il tempio dell'anima che lo riempie. La mia voce sulla base gravita continuamente, nonostante la gravità dei fatti, nonostante i rapper fake e i contratti falsi, nonostante intorno a me sono tutti fatti. Coti a puntino, eterno adolescente alternativo. Prendo appunto spunto per uno spuntino e colgo l'occasione per mandarti a cagare educatamente. Suono come un campanello d'allarme. Avviso che il legno è invaso dalle tarme. Posso utilizzare tutto il karma che vuoi, ma se stai nelle tame sono cazzi tuoi. Suono come un campanello d'allarme. Avviso che il legno è invaso dalle tarme. Posso utilizzare tutto il karma che vuoi, ma se stai nelle tame sono cazzi tuoi. E questo è il tempo in cui la gente ottusa vende. E io sono in trans, ne ho passate troppe come un transgender. La soluzione non è bere come Bender. non è fare il cattivo come Mark Lander. Proprio non mi si addice, la gente parla, la gente dice, mi maledice se son felice, se c'è consenso come Nietzsche, mi benedice se mi stiro le camicie, metto pantaloni a righe, solo aspetto di uno che ride, ma poi la notte esco e uccido le puttane con il rimmel e bestemmio tra i denti come i dissidenti a Cuba contro Fidel. Mi viene da ridere, penso al nano che fa il leader, mezza Italia lo vorrebbe uccidere, continuo a scrivere e scrivere senza timore riverenziale, suono come un campanello d'allarme, avviso che legno invaso dalle tarme. Posso utilizzare tutto il karma che vuoi, ma se stai nel letame sono cazzi tuoi. Suono come un campanello d'allarme, avviso che legno invaso dalle tarme. Posso utilizzare tutto il karma che vuoi, ma se stai nel letame sono cazzi tuoi. Suono come un campanello d'allarme, avviso che legno invaso dalle tarme. Posso utilizzare tutto il karma che vuoi, ma se stai nel letame sono cazzi tuoi. Suono come un campanello d'allarme, avviso che legno invaso dalle tarme. Posso utilizzare tutto il karma che vuoi, ma se stai nel letame sono cazzi tuoi. Io pure mi voglio prendere una sana pausa, ma se vado avanti così mi esaurisco presto. Una sana pausa, io non sposo la vostra causa, è lo stress che mi manda in cancrena, la pigrizia è solo il mio problema. Oggi mi prendo una sana pausa e adesso ecco a voi un pezzo fantomatico, demone sconosciuto, dall'album sconosciuto e dall'artista sconosciuto, solo ed esclusivamente su un'altra Radio Roma. Solo da noi avviene tutto ciò. Un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma. Un'altra Radio Roma. Dove cazzo è l'affetto quando ne bisogna? È da tempo che l'aspetto, ogni ora, ogni giorno. Pezzo tra me e me, tranquillo, ora arriva. Dai, attento a lungo e paziente, ma non arriva mai, passa davanti a me. Riesco ad avvertirlo ad un centimetro da me, ma non riesco ad acchiapparlo. E poi mi vedi che parlo e cammino da solo, cuore aperto come ali di un falco, appena spicca il volo. Credo e spero sempre che sia la volta giusta, ma la ferita entro dentro a me neanche bussa. E mi ritrovo faccia a faccia con un volto conosciuto, quando troppe sconfitte, nonostante ci abbia combattuto, nonostante le ferite che lui mi ha inflitto. Continuo a subire senza reagire, sto zitto, mi abbasso, mi inginocchio, ad agire mi rifiuto. Sta dentro me, demone sconosciuto. Dove sei, demone sconosciuto? Il coraggio di affrontarti io ce l'ho avuto. Fatti vedere, demone sconosciuto, non cado più nella trappola, non mi illudo. Dove sei, demone sconosciuto? Il coraggio di affrontarti io ce l'ho avuto. Fatti vedere, demone sconosciuto, non cado più nella trappola, non mi illudo. Passo notte intere senza chiudere occhi, in cui ogni sentimento nato ora si ritrova morto. Si ritrova ucciso da un personaggio ignoto. E poi va, lascia il posto in cui stava vuoto, lascia dietro un accumulo di convinzioni che pungono, scudono su, illudono noi uomini. Vede all'orizzonte un'ombra che si avvicina, viene qua, ti prende, ti avvolge, ti rovina. Non si rende conto di ciò che provoca. Io grido sì, piango, senti sta voce che soffoca. Per il dolore qua ogni speranza amore, il male crea terrore in onore del mio nome, ma cerco di distrarmi come meglio posso. Ora è nero il filo che portavo di colore rosso, ridotto così per colpa di qualcuno, per me è un nemico da moto, per molti nessuno. Dove sei, demone sconosciuto? Il coraggio di affrontarti io ce l'ho avuto. Fatti vedere, demone sconosciuto, non cado più nella trappola, non mi illudo. Dove sei, demone sconosciuto? Il coraggio di affrontarti io ce l'ho avuto. Fatti vedere, demone sconosciuto, non cado più nella trappola, non mi illudo. Mi sento ancora i dolori del passato, mi ha lasciato per terra, ora mi sono rialzato, convinto che ormai è tutto concluso, fallito l'obiettivo per cui mi ero illuso, deciso di cambiare una volta per tutte, ma di nuovo alle corde spezzate, distrutte da qualcosa, qualcuno che mi danneggia, ma che con ogni rima qua si decrementa, si spaventa e va via da me. Ha capito che il suo punto debole è il re, e che non c'è una via di fuga, ogni strofa, ogni bar, ogni rima lo brucia. E corre via il demone con il suo bruciore, lasciandomi a pezzi insieme al mio cuore, che mi fa vivere e che mi riscalda. Demone, ti ho sconfitto in battaglia. Dove sei, demone? amico. Ho conosciuto il coraggio di affrontarti, io ce l'ho avuto. Fatti vedere demonesco, conosciuto non cado più nella trappola, non mi illudo. Dove sei demonesco, conosciuto il coraggio di affrontarti, io ce l'ho avuto. Fatti vedere demonesco, conosciuto non cado più nella trappola, non mi illudo. Cocotto, ma vabbè, tanto pronto lo so a far vedere perché a te manca un quarto d'ora. Cocotto, non sa più che dire, va sempre con comando in mezzo, così con la marcia. E continuiamo che solo lui ci può salvare. Lord Metal, un pezzo di dopo chiudermi fra pregio e per voi Lord Metal dell'album MDFA. Ho il cervello pregno dell'ingegno che ti servirebbe per ridere di gusto alla salenne. Sembrerebbe un trucco e forse un po' lo è, perché di fatto è un lusso calcolare il mio quoziente. Se volessi calcolarlo, KM è il mio fattore, che il frutto del mio ingegno sta sull'albero motore. Servate sto privé e te sei un infiltrato, piove sul bagnato, poi sei scivolato, dato fiato ai miei polmoni e poi muori se ti incarti. Ho visioni più che al cinema, ho Baudelaire la citera, ho Steve McQueen, ho Keith Sting, eccetera. E c'era della vena comica, una replica. Accetterate il passo perché in basso ho messo un'elica. E dietro non c'è Omar ma ti sta seguendo Erika. La gente come te uguale a te non è polemica. E da ste parti come l'Aperon si evita. Madness, MC, Mike Tyson, Marketios, President, The Best Rapper, Rap Angesto nell'ate di fiato al flusso che viaggia su uranio. Suicide Volume, la mia click pompa solo i gemelli diversi. Tu già lo sai, mi sembra strano. Troppo in alto hai le vertigini, slam poetry come Saul Williams in un carcere di Washington DC. Crisi di nervi, respiro amianto con un cancro che mi respira a fianco. Hardcore punk, funk, demolition su di un palco. Suono spesso, quindi poche sottigliezze, rime grezze, pezze e qualità da plus valenze. Conti solo 6 stelle da quando me ne sono andato dal petto di Kenshiro. Onirico stilo rap chimico, metanfetamina slow sui 6 stimolos che dicono delle mie formule da performer che fanno più brutto di un deforme. La gente dorme, non segue le mie orme. Svegliati e premi il pulsante sul medic controller. Tre film a skills bill, bastano tre passi. Trapassi, incassi, fresh lyrics, you army ticks come il chicken che ti mangi. PRG, wanna ride my flow. Oh no! Come Nate Dogg, most death, mosso definitivamente dal mio corpo. Urmi, maghi, come ci parli rilassato, vedi di darti a TC. Snobo purple pills in discoteca, non sto giù con boy in bacheca. Checca, che cazzo, sfilo lo stilo di metto a dieta. A detta mia, trasmetto energia come rame. Sul podio piglio l'oro mentre tossisco catrame. Sfondo travi portanti dal palco quando salgo. Ma non perché mangio, sto con L'Oreal, solo perché io valgo. Bad Bros da Daytona, brucio ogni corona con scatti da CR ad SR. Passando per Roma, mando in come MCs da Faserema e quindi celebro me stesso. E se non porto con te solo perché sono etero. Ho idee dalla mia testa con le quali cerco gloria. Se i pensieri sono frutti, cazzo c'ho una Macedonia. Se spremo la mia mente ne escono litri di succo. Assomigliato a muratori perché vi lascio di stucco. Disturbo con frequenze poco consone, spinte dal diaframma incastrate dentro le costole. Vibrazioni come un tremolo, voi parziali come un demo. Se vi parlo del mio vino capite quando è d'aceto. Lavoro le parole anche se non mi danno cibo. Per questo scrivo sopra i mezzi quando vado in giro. 7 del mattino cerco qualcosa che frutti. Ma quando il sole cala i muscoli tutti distrutti. Porto suono solo perché ne ho bisogno. E quando scrivo penso che sia tutto un brutto sogno. Sfrutto la mia testa, la spingo fuori dal limite. Per questo non mi vedi, metti a fuoco la tua iride. Mike Tyson, Mike Tyson. È l'anno 2008. Pregio Man, Rico, Mifra e Madness, Siracusa, Crema, Roma Nomentano. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha, and you jump stop. Ha ha ha ha ha ha ha. E adesso per voi qui a Scienza Doppia K, sempre un personaggio della Taranto Massive Crew. Lui è Big Nose e questa è Naso. Mi presento, mi chiamo Matteo e sono 18enne. La mia ragione di vita è la musica ed è perenne. Mi piace ascoltarla, per poi masticarla, sui dischi screcciarla, per poi rielaborarla. Ho alcuni soprannomi come Big Nose o Naso. Se mi riconoscono per questo è un vero e proprio caso. Amici di ogni tipo per qualunque situazione. Vendo qualsiasi cosa, chiamami per l'occasione. Amo i capelli ricci, le gambe e i piedi. Big Nose, sei strano, questo come me lo spieghi? Non lo so, saranno giusti, tu prova a capirmi. Se dinanzi a ste tipi tu ci provi o ti fermi. Me gusta la fly, ma non schifo le fighette. La donna non è fatta solo da figa, culettette. Ci esco pazzo, non riesco a stare senza. Sono più contento se ne stanno in abbondanza. Mi riconosci, il mio nome è Naso. Sopra due piatti, non lascio niente a caso. Taranto è la zona, tamburi il mio rione. Solo passione, zero immaginazione. Mi riconosci, il mio nome è Naso. Sopra due piatti, non lascio niente a caso. Taranto è la zona, tamburi il mio rione. Solo passione, zero immaginazione. Vive in un quartiere, altro che alto locato. Fatico a respirare, in me non ho più fiato. Diossine, morti bianche, cassa integrazione. La gente muore e non cambia la situazione. Persone disperate, senza un soldo in tasca. Ruba, si droga, spaccia solo roba losca. Ragazze madri che cerca sistemazione. Con dei figli sulle spalle, le sale e la depressione. Nonostante tutto ciò, io amo dove vivo. La gente, il sole, il mare, l'aria sporca che respiro. La birra, le gemme, le vecchie tradizioni. San Cataldo, i perdoni e le varie processioni. Ponte girevole, mar piccolo e mar grande. Hanno fatto innamorare chiunque sia il passante. Taranto è la città che la vedi e ti innamori. Mi rimarrai soddisfatto dai suoi luoghi, sui sapori. Mi riconosci, il mio nome è Naso. Sopra due piatti, non lascio niente al caso. Taranto è la zona, tamburi il mio rione. Solo passione, zero immaginazione. Mi riconosci, il mio nome è Naso. Sopra due piatti, non lascio niente al caso. Taranto è la zona, tamburi il mio rione. Solo passione, zero immaginazione. Tutta male per i sacchi, riuscito con uno scribble. Meglio sure che dici no per me, only octophone needle. Si tratta di puntine, giradischi e crossfader. Scratch da quando sono stati inventati le meter. Il mio primo giradischi sembrava batteria. GBC con crossori duri quasi da buttar via. Sopra i tecnici non sai quanto sangue ho buttato. Mixer e Vestax è un faderottico rosurato. Sfoglio dischi, le mie mani sono abituate. Cercano solo roba buona anche tra le cose già usate. Forse devi sapere che tratto il vinile con la stessa delicatezza con cui tratto le signorine. Quando salgo sul palco al centro dell'attenzione, a commenza screccia e davvero un svarione. Ripeto il mio nome, Big Nose, Mr. Sinderen. A quel gioco ne partner screccia su Break Beat. Mi riconosci, il mio nome è Naso. Sopra due piatti, non lascio niente a caso. Taranto è la zona, tamburi il mio rione. Solo passione, zero immaginazione. Mi riconosci, il mio nome è Naso. Sopra due piatti, non lascio niente a caso. Taranto è la zona, tamburi il mio rione. Solo passione, zero immaginazione. Faccio ecco a voi un pezzo sbamberato per noi della radio più sbamberata, di un'altra radio sbamberata a Roma. De noi sbamberati, sbambero Gogot e sbambero Scheppo. NC247, Made in Doga. Il loro pezzo è 100%. Eccoli, eccoli, eccoli. Sì, sì. Ok. NC247 Two Fingers. Apro gli occhi e non penso, non penso a te. Cerco il 100% che esplode dentro me. Non so dov'è, ma so che dando il 100% troverà prima lui me. Come se il mio cervello non smettesse mai di pensare, avanzando, bruciando fase per fase. Concetto elementare, niente dato per niente. Metto il 100%, reazione indipendente. Arrivare a un traguardo che è come Babilonia. Nessun premio, gloria, ma un segno nella storia. Alimenta la mia boria, illudendo la mia gioia. Ma 100% per capire, 100% per uscire, 100% per riuscire. Non mollare mai, continuerai a salire. Fatto vile, ma tutto è realizzabile. E l'ennesimo Golia cadrà ai piedi di Davide. Senso stabile e stamina 100%. Il male scompare, tutto cambia. E ogni cosa che intento, anche se sembra inutile, mi ci butto dentro. Al 100% è una questione di tempo. È una ruota che gira e che mi tira dentro. Al 100%, al 100%. 100% il riflesso di un tempo perso. la mia immagine appannata nello specchio, la voglia di dare a tutto questo un prezzo, alla ricerca continua della mia via come Ezio. Perciò resto, perché il mio credo è questo, hip hop l'unica cosa in cui riesco, perciò investo tutto su me stesso, sangue, anime, corpo per arrivare al successo. Insieme a chi con me combatte, insieme a chi con me non si abbatte mai, davanti a nessun ostacolo, NC247 si denizia lo spettacolo. Siamo pronti a compiere il miracolo, 2010 l'anno dell'oracolo, non esiste modo per fermarci, siamo al 100%, tu inizia a segnare. Ogni cosa che tento, anche se sembra inutile, mi ci butto dentro al 100%. È una questione di tempo, è una ruota che gira e che mi tira dentro al 100%, al 100%. Allora 100, 100, 100. Quelli come me non sono mai soddisfatti, non ci interessa il 99,9. Non so più ti se è vero che chi si accontenta gode, perché non ho mai tempo per godere dei frutti. Anzi no, non è una questione di tempo. Paura di fare l'errore che fa ogni mamma, che vede i propri figli belli anche se sono brutti. Siamo nell'era della concorrenza, nell'era del sì signore, sono pronto, sì tutto a posto. O fai così o c'è sempre qualcuno meglio di te, pronto lì a prendere il tuo posto. Quanto è importante la vita, quanto conta sentirsi in pace quando capisci che è finita. Credi nel perdono, io credo che anche se ammetti i tuoi peccati devi pagare, credo nel condono. E ogni cosa che tento, anche se sembra inutile, mi ci butto dentro al 100%. È una questione di tempo, è una ruota che gira e che mi tira dentro al 100%, al 100%, 100%, Medindo, NC247, Danti, sì, e Two Fingers, baby, Two Fingers. Tramite www.unaltraradio.blogspot.com potrete scaricare anche la diretta e ovviamente i nostri podcast. Cliccate direttamente sul link e poi andrete su un altro sito www.archive.org dove potrete scaricare file MP3 direttamente. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, Camp e Coco vi salutano con un ultimo pezzo. Loro sono ancora in Family Connection, ringraziamo That's One, Same One. E mandiamo Faccio il fit con me stesso. Loro sono Family Connection da Roma. Brutti! Ringraziamo tutti i gruppi che abbiamo trasmesso. Ci sentiamo alla prossima trasmissione e vi lasciamo con Mr. Gasperino e Mr. Brontolo per la loro trasmissione. FK Crew 2010. FK Crew ancora. Yes. Vuoi la standing ovation quando monti sul palco? Dici che sei bravo, non ti inculo né manco. Chiama me Simone anche se poi io sono franco. Tutti farsi MC, siete tutti capi branco. Dici Famer Fit, vuoi la collaborazione? Dopo tre minuti non ti ricordi neanche il nome. Vedi da farla finita, non reggo confronto nella situazione. Vedi da stampa capino, spreco il mio tempo con un coglione. Stai fuori dal locale, sguardo fiero e canna in bocca. Mentre dentro al posto c'è sta una che mi sciocca, con l'aria soddisfatta dice la ragazza mia. E mi sognava tutto nudo dentro casa sua. E muta sopra il palco, dico sempre cosa penso. Provo un po' a sentirti queste mie parole perché c'hanno un senso. Arrivo con lo stile denso, con il fuoco dentro. Arrivo sempre inaspettato, tipo Jeff al mento. Ultimi arrivati giù nel fondo della lista, Family Connection e che ieri è pipista. Ascolto un po' ste hit, c'è dentro la mia shit marchiata con la F e poi la K, la mia key. Non devo certo darti alcune spiegazioni, lo sai io me ne fotto se poi critichi tutte le mie canzoni. È una questione di stile,

venditore del folletto, 90 la paura come i gradi quando è retto. Carta Radio Roma, solo musica di danza. Dove sei il demone? Conosciuto il coraggio di affrontare. A questo punto ci censurano. È quasi ovvio. Ripartiamo di nuovo, ci riproviamo ancora. Ma questa sera è parecchio strano. E va così. Tutto questo lo troverete attraverso il nostro blog, un nuovo podcast. Già. Informazione. Se c'è brasi, sopra il beat, siamo in controllabili, eh sì, prova a venirci. Ora ricomincio un'altra volta e per la 35esima volta li ripresento, ma del resto se lo meritano. Loro sono Lost and Korax, l'album è Rambelon e questo è un mitico testo, oltre i limiti, oltre i limiti. Scusate ancora per l'interruzione, chiudetevi il pezzo. Motorino a faro spento, passo il PA. Noi saliamo su e tu non ci se c'è brasca sopra il beat, siamo incontrollabili e sì. Sono cazzi tuoi, sono cazzi tuoi, sono cazzi tuoi, così mi puoi. Puoi utilizzare tutto il karma che vuoi, ma se sai nell'etame sono cazzi tuoi, cazzi tuoi. Puoi usare tutto il karma che vuoi, cazzi tuoi. Volevo ricordare che dopo di noi trovate Mr. Brontolo e Mr. Gasperino, The Brothers. Ogni sentimento nato ora si ritrova morto, si ritrova ucciso da un personaggio ignoto. E poi va, lascia il posto in cui stava vuoto, lascia dietro una... Brontolo, che musica mettete? Su illudono poi gli uomini per niente. Un uomo che si avvicina a te. Già Gasperino si è andato a fare la doccia prima di entrare in diretta. Infatti si sarà fatto solo la doccia. La situazione adesso è tornata sotto controllo. Sotto controllo. Sono le 23 e 06 e 06 un'altra Radio Roma. Qui girano tutti con pezzi di carta con su scritto cosa e non cosa dire. Cosa e non cosa dire. Buon ascolto. Un saluto speciale per Capoccione. Per Capoccione. Per Capoccione. Per Capoccione. Di una buona notte a tutti. A tutti, a tutti, a tutti, Radio Roma. Che facciamo? Dobbiamo continuare? Continuare? Io l'unico pezzo di carta che ho in mano l'ho appena acceso. Vabbè, comunque adesso lancio un bel pezzo. A caso. A caso. Un'altra Radio Roma. Blogspot.com. Rimanete con noi.